Posso fidarmi di te? Leggo nella Bibbia in Proverbi, capitolo 11, versetto 13. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. La lealtà è una virtù sempre più rara in un mondo in cui molti considerano di poco valore la parola data e ognuno cerca prevalentemente il proprio interesse senza preoccuparsi troppo delle conseguenze delle proprie azioni sull'altro. L'arrivismo esasperato si manifesta a tutti i livelli della società e porta le persone a non essere leali verso gli altri. La nostra società si basa sul fatto che le persone siano in perenne competizione le une con le altre. Le aziende sono costruite in modo che i dipendenti siano in lotta tra di loro per un premio, un aumento di stipendio, una promozione. Quanti saranno in grado di mantenere la lealtà in un clima simile? È facile essere leali quando non c'è nulla in gioco, ma la lealtà è messa a dura prova proprio quando una situazione diventa difficile, quando possono esserci dei motivi per venire meno alla parola data, quando possono esserci dei vantaggi a non mantenere fede alle proprie promesse. La persona davvero leale manterrà la sua coerenza in tutte le situazioni. Ci guardiamo intorno e non possiamo fare a meno di chiederci: di chi posso fidarmi? Puoi fidarti del collega o cercherà di farti le scarpe alla prima occasione? Puoi fidarti dell'amico o è motivato da un secondo fine? Puoi fidarti di tuo marito o si invaghirà della prima che passa? Il cristiano biblico deve avere la lealtà tra i propri valori. È un valore che deve contraddistinguerci, un valore che ci permetterà di essere davvero luce del mondo e di essere buoni testimoni di Cristo. La mancanza di lealtà è qualcosa che può davvero rovinare i rapporti e se si trova in un cristiano è motivo di biasimo e cattiva testimonianza. Se come cristiani non siamo leali tra di noi e verso il prossimo, in quale modo possiamo pensare di influenzare positivamente gli altri? Perché la gente dovrebbe credere a ciò che diciamo loro? Le persone possono fidarsi di me? Possono farmi una confidenza sapendo che resterà riservata? Possono girarsi sapendo che non tenterò di colpirle alle spalle? Chi ha a che fare con me ha l'impressione di avere davanti una persona superficiale con la quale non valga la pena condividere le cose che stanno più a cuore? La lealtà è una di quelle qualità che non dobbiamo dare per scontate, ma dobbiamo curare con la massima attenzione. Lungi dall'essere un accessorio, sarà una delle qualità che ci permetteranno di essere buoni testimoni di Cristo. O al contrario, di scandalizzare irrimediabilmente coloro che ci circondano, come è accaduto purtroppo molte volte.